scivolavano così lungo la corrente, immobili entrambi in quel silenzio come in un rifugio, timorosi entrambi che i loro sentimenti potessero di nuovo trovarsi in contrasto, finché si avvidero che le nubi si erano addensate e che il fresco appena sensibile della brezza era andato crescendo, finché il colore del giorno fu tutto cambiato. Avete freddo, Maggie, con quella veste leggera? Lasciate che vi metta il mantello sulle spalle. Alzatevi un momento, cara. Maggie obbedì. C'era un incanto inesprimibile nel sentirsi dire quel che doveva fare e nel trovare ogni cosa già decisa. Tornò a sedersi nel riparo del mantello e Steven riprese i remi, affrettandosi perché dovevano tentare di raggiungere Torby prima possibile. Maggie era appena consapevole di aver detto o fatto qualcosa di decisivo. L'abbandono è sempre accompagnato da meno vivace consapevolezza che non la resistenza. È un parziale assopirsi del pensiero e il sommergersi della nostra personalità di fronte ad un'altra, quel fantastico scivolar della barca che era durato per 4 ore e aveva indotto una certa stanchezza ed esaurimento, la riluttanza dei suoi sensi affaticati di fronte all'insopportabile difficoltà di dover sbarcare lontano da casa, a una distanza sconosciuta e di dover camminare a piedi per lunghe miglia. Tutto contribuiva a renderla via più schiava di quel forte e misterioso fascino, per cui una definitiva separazione da Steven pareva la morte di ogni gioia, per cui il pensiero di fargli del male era simile al primo tocco del ferro di tortura. E poi c'era questa presente felicità di ritrovarsi con lui che bastava ad assorbire tutta la sua energia languente. Ben presto Steven si avvide di un battello che veniva dietro di loro. Parecchi battelli, fra cui il vapore di Mudport, li avevano oltrepassati all'inizio della marea, ma durante l'ultima ora non ne avevano più veduti. Steven guardava sempre più vivamente il battello, quasi come se un nuovo pensiero gli fosse venuto in mente a quella vista, e poi si volse verso Maggie con esitazione. «Maggie, cara», le disse finalmente, «se questo battello fosse diretto a Mudport o a qualche luogo conveniente della costa settentrionale, il meglio sarebbe di chiedere che ci prendessero a bordo. Voi siete stanca e forse sta per piovere. Raggiungere Torby su questa barca potrebbe diventare un affare serio. Quello non è che un battello mercantile, ma credo che potreste installarvici abbastanza comodamente. Prenderemo i cuscini qui dalla barca. È veramente il miglior partito. Saranno contentissimi di prenderci a bordo. Ho con me parecchio denaro, potrò pagarli bene». A questa nuova proposta, il cuore di Maggie cominciò a battere con ravvivata apprensione, ma stette zitta, tutte le soluzioni le parevano altrettanto difficili. Steven diede una voce al battello, era un legno olandese, diretto a Mudport, spiegò il pilota inglese. Se durava quel vento sarebbe potuto giungervi in meno di 2 giorni. Ci siamo spinti troppo in là con questa barca, disse Steven. Stavo tentando di raggiungere Torby, ma sono inquieto per il tempo e questa signora, mia moglie, sarà esausta di fatica e di fame. Prendeteci a bordo, volete? E rimorchiate la barca, vi pagherò bene. Maggie, che adesso realmente veniva meno e tremava di paura, fu issata a bordo, dove costituì un interessante oggetto di contemplazione per gli olandesi ammirati. Il pilota temeva che la signora si sarebbe trovata male a bordo, dove non c'erano comodità per passeggeri così inattesi, né una cabina privata più grande che un banco da chiesa di vecchia foggia. Ma c'era almeno la pulizia olandese, che rende sopportabile ogni altro inconveniente, e i cuscini della barca furono disposti a poppa con tutta sollecitudine, a guisa di una cuccetta per Maggie. Ma ben presto ella sentì il bisogno di passeggiare su e giù per il ponte, appoggiandosi a Steven, sostenuta dalla forza di lui. Poi venne il bisogno di cibo, poi quello di abbandonarsi tranquilla sui cuscini, col senso che per quel giorno non c'erano più da prendere nuove decisioni. Fino all'indomani tutto era sospeso. Steven si sedette accanto a lei, tenendole le mani. Non potevano parlarsi che a bassa voce, né guardarsi che di tanto in tanto, perché ci sarebbe voluto parecchio tempo avanti che la curiosità dei 5 uomini di bordo si attutisse e l'interesse per quei 2 bei giovani stranieri si riducesse a quella più modica misura che compete nella stima del marinaio a tutti gli oggetti più in qua dell'orizzonte. Ma Steven era trionfalmente felice. Qualunque altro pensiero o preoccupazione era ricacciati in una indefinita prospettiva, dalla certezza che Maggie sarebbe stata sua. Lo slancio ormai era preso, egli era stato torturato dagli scrupoli, aveva fieramente combattuto contro un'attrattiva prepotente, aveva esitato, ma ora il pentimento era impossibile. Mormorava in frasi rotte la propria felicità, la propria adorazione, la propria tenerezza, la propria fiducia che la loro vita in comune sarebbe stata un paradiso, che la presenza di Maggie accanto a lui avrebbe colmato di delizie i giorni più ordinari, che soddisfare i suoi più lievi desideri gli sarebbe stato più caro che qualunque altra felicità, che tutto gli era facile per lei, fuorché lasciarla. E ora non si sarebbero lasciati mai più. Egli sarebbe stato suo per sempre. Tutto ciò che gli apparteneva avrebbe appartenuto a lei, né aveva valore per lui se non in quanto apparteneva a lei. Tali cose, proferite in tono basso e rotto, e proprio da quell'unica voce che prima ha smosso le fibre di una giovane passione, potranno anche fare poco effetto su gente sperimentata e che le loda a distanza, ma per la povera Maggie erano molto vicine, erano come un nettare accostato all'abbraviarsi. C'era dunque, ci doveva essere per i mortali di quaggiù un'esistenza non dannata alla durezza e alla frigidità, in cui l'affetto non sarebbe più stato rinunzia. Le parole appassionate di Steven le rendevano la visione di una tale vita più presente di quanto non le fosse stata mai, e quella visione per il momento escludeva ogni altra realtà, tutto fuorché il riverbero dei raggi del sole che all'appressarsi della sera si rompevano a fior dell'acqua e si mescolavano coi fantastici bagliori della promessa felicità. Tutto fuorché la mano che premeva la sua, e la voce che le parlava, e gli occhi che la guardavano con un grave, inesprimibile amore. Ormai non poteva piovere più, le nubi tornavano a correre verso l'orizzonte lontano, formando il grande bastione di porpora e le lunghe isole porporine di quella terra meravigliosa. Maggie avrebbe dormito tutta la notte a poppa. Era meglio che scendere sotto coperta, e fu avvolta nelle più calde coperte che il bastimento poteva fornire. Era ancora presto quando le fatiche della giornata le misero addosso un pigro desiderio di riposo. Reclinò il capo, guardando il languido rossore che moriva a occidente, poi alzò gli occhi verso Steven, che era seduto sempre accanto a lei, chino su di lei, col braccio appoggiato contro il parapetto del battello. Dietro tutte le deliziose visioni di queste ultime ore, che erano trascorse su di lei come una dolce corrente e l'avevano resa interamente passiva, c'era la confusa coscienza che questa situazione era precaria e che il domani avrebbe riportata la vecchia vita di lotte, e che c'erano pensieri che presto si sarebbero presa vendetta dell'essere stati dimenticati. Ma per ora non vedeva nulla di preciso, si sentiva cullare verso il sonno dalla dolce corrente che ancora trascorreva su di lei, dalle deliziose visioni che si fondevano e si dissolvevano come la meravigliosa aerea regione accesa sull'Occidente. 14. Risveglio. Quando Maggie si fu addormentata, Steven, molto stanco per tutto quell'insolito remare e per l'intensa vita interiore della precedente giornata, ma troppo inquieto per dormire, passeggiò in lungo e in largo sul ponte, fumando il sigaro fino alla mezzanotte, senza scorgere le buie acque, avvedendosi appena che c'erano le stelle, vivendo solo nel futuro prossimo e lontano. Finalmente la fatica ebbe ragione dell'inquietudine ed egli si avvolse in un pezzo di tela cerata ai piedi di Maggie. Ella si era addormentata prima delle 9, aveva dormito per 6 ore, finché si cominciarono a discernere i primi fiochi avvisi dell'alba di mezz'estate. Si destò da quell'allucinato sognare che forma il margine dei nostri riposi più profondi. Era con Steven in una barca sulle acque aperte, e nella tenebra crescente apparve qualcosa come una stella che diventava sempre più grande, finché videro che era la Vergine seduta sul battello di St. Oaks e si avvicinava sempre più, finché videro che la Vergine era Lucy e il barcaiolo era Philip. No, non Philip, ma Tom, che remando la oltrepassava senza guardarla, e lei si alzava per tendergli le braccia e chiamarlo. E la loro barca si capovolgeva per quel movimento e cominciava ad affondare, finché in uno spasimo di terrore le parve destarsi e ritrovarsi bimba nel salotto al crepuscolo serale, che Tom non fosse veramente in collera. Dalla tranquillante sensazione di questo falso risveglio e la passò al risveglio vero. Sciabordare d'acqua contro il battello, suono di un passo sul ponte e solenne cielo stellato. Ci fu un attimo di profondo smarrimento, avanti che la sua mente potesse svincolarsi dalla confusa trama dei sogni. Ma poi, subito, tutta la tremenda verità tornò a gravare su di lei. Ecco. Steven non le era più accanto, sola era con le sue memorie e i suoi terrori. L'irrevocabile errore che doveva macchiare la sua esistenza era stato commesso. Ella aveva gettato nel cordoglio altre vite, vite legate alla sua, dalla fiducia e dall'amore. Un sentimento di poche brevi settimane l'aveva precipitata ai peccati che più avevano ripugnato alla sua natura. Violar la fede e rinchiudersi in un crudele egoismo. Spezzati i legami che avevano dato fondamento al dovere, aveva fatto di se stessa un'anima fuori di ogni legge, senz'altra guida che l'arbitrio caparbio della propria passione. E dove l'avrebbe condotta tutto ciò? Dove l'aveva già condotta? Ah, meglio morire che cadere in quella tentazione, aveva detto, e ne era ben conscia ora, ora che le conseguenze di una tale caduta ne avevano precorso il materiale avvenimento. Un frutto almeno c'era. Di tutti gli anni durati a struggersi per un ideale di nobiltà e di bene, l'anima sua, quantunque tradita, ingannata, attratta in un agguato, non avrebbe potuto mai deliberatamente consentire a una scelta del peggio. A quale scelta, poi? Oh, non già della gioia, ma di una consapevole crudeltà e durezza? Perché avrebbe mai cessato di vedere davanti a sé Lucy e Philip con le loro fiducie, le loro speranze uccise? La sua vita con Steven non poteva avere nulla di sacro. La sua vita con Steven sarebbe stata un cadere sempre più in basso e per sempre aggirarsi senza meta, in preda ad impulsi malcerti. Ecco quel che le sarebbe toccato, da che si era lasciata sfuggire il filo conduttore della vita, quel filo conduttore a cui un tempo, negli anni lontani della giovinezza, si era afferrata con un bisogno così veemente. Allora aveva rinunciato a ogni delizia prima ancora di conoscerla, prima che le fosse giunta a portata di mano. Philip aveva ragione allorché le aveva detto che ella non sapeva nulla della rinunzia. L'aveva creduta una quieta estasi, ed ecco la vedeva faccia a faccia. Questa triste e paziente e viva forza che tiene stretto il filo conduttore della vita e si accorge che le spine erano per sempre affondate nella sua fronte. Quella giornata di ieri, che non si sarebbe potuta revocare mai più, se ora le fosse stato possibile di mutarla in una silenziosa sofferenza interiore, per quanto lunga, ella si sarebbe abbattuta ai piedi di tal croce con un tale senso di riposo. Venne l'aurora, con le rosse luci di Oriente, mentre la sua vita passata la riafferrava, così, con quella forza stringente di cui è capace, negli ultimi momenti di un possibile riscatto. Ora ella poteva scorgere Steven che giaceva ancora addormentato sul ponte e con la vista di lui un'onda di angoscia la colse che trovò esito in un singhiozzare a lungo represso. La peggiore amarezza del distacco, il pensiero che levava entro di lei, il più lacerante grido di soccorso era quello della pena che gli ne avrebbe provata. Ma su ogni altra cosa predominava l'orrore della possibile caduta, il timore che la sua coscienza potesse di nuovo intorpidirsi e non risvegliarsi che troppo tardi all'energia, troppo tardi. Era già troppo tardi per non cagionar più del dolore, troppo tardi per tutto, forse, tranne che per sfuggire all'ultima bassezza, quella di godere gioie estorte a cuori martirizzati. Ecco, si levava il sole e Maggie si alzò con la sensazione che una giornata di resistenza stava iniziandosi per lei. Le sue ciglia erano ancora umide di lacrime quando si sedette con lo scialle sul capo a guardare il sole che lentamente saliva. Qualche cosa destò anche Steven, che alzandosi dal suo duro giaciglio venne a sedersi accanto a lei. Col vivo istinto di un amore inquieto, scorse fin dal primo sguardo qualcosa di allarmante. Serpeggiava in lui il timore di una tal quale forza di resistenza insita in Maggie che egli sarebbe stato incapace di superare. Aveva la penosa coscienza d'averle ritolta il giorno prima la sua perfetta libertà, È troppo innato il senso dell'onore per non rendersi conto che se la volontà di lei retrocedeva, allora la propria condotta sarebbe stata odiosa ed ella avrebbe avuto il diritto di rimproverarlo. Ma Maggie non si sentiva questo diritto, era troppo consapevole della propria fatale debolezza, troppo piena della tenerezza che accompagna la previsione di dover infliggere una ferita. Lasciò che egli le prendesse la mano quando venne a sederlesi accanto e gli sorrise, se non che il suo sguardo era alquanto triste. Dir cosa che gli cagionasse della pena non poteva finché il momento di una possibile separazione non fosse più vicino. E così sorseggiarono insieme la loro tazza di caffè e passeggiarono per il ponte e udirono il capitano che li assicurava che per le 5 sarebbero stati a Mudport, ciascuno con un peso sul cuore. Ma in lui era un indefinito timore che gli confidava potesse essere dissipato dalle ore venture, in lei una definita risoluzione a cui si sforzava in silenzio di appigliarsi con più fermezza. Steven continuò tutta la mattina a esprimerle il proprio affanno per la fatica e il disagio che ella doveva sopportare e accennava allo sbarco e al cambiamento del mezzo di locomozione e al riposo che ella avrebbe trovato in carrozza, mirando a rassicurarsi più completamente con l'immagine che tutto si sarebbe svolto come egli aveva progettato. Per un pezzo Maggie si contentò di rassicurarlo che aveva passato una buona notte di riposo e che non le dispiaceva d'essere su quel bastimento. Non era come trovarsi in alto mare, ma solo un po' meno gradevole che andare in barca sulla Floss. Se non che una decisione repressa si tradisce dagli occhi. E Steven si faceva sempre più inquieto di mano in mano che il giorno avanzava, sentendo che Maggie aveva completamente perduto la propria rendevolezza. Egli anelava, ma non osava, di parlare del loro matrimonio, del luogo dove sarebbero andati di poi e dei passi che avrebbero fatto per informare dell'accaduto suo padre e tutti gli altri. Smaniava di garantirsi un tacito consenso di lei, ma ogni volta che la guardava sentiva crescersi un più forte timore per la nuova calma tristezza con cui ella rispondeva al suo sguardo, e rimanevano sempre più taciturni. Eccoci in vista di Mudport, egli disse finalmente. Adesso, cara, soggiunse volgendosi a lei con uno sguardo che era quasi una supplica, la peggior parte della vostra fatica è terminata. A terra potremo esigere che si corra, tra un'ora e mezza saremo insieme su una carrozza e in paragone con questo vi sembrerà di riposare. Maggie sentì che ora era tempo di parlare. Ormai consentire tacendo sarebbe stata una pura mancanza di carità. Parlò con la sua voce più bassa, come aveva fatto lui, ma con netta decisione. Non saremo insieme. Dobbiamo separarci. E il sangue affluì al viso di Steven. Questo mai, le disse, morrò piuttosto. Era proprio ciò che egli aveva temuto, una lotta che si avvicinava. Ma nessuno dei due osò più aggiungere parola, finché non fu messa in acqua la scialuppa che li trasportò alla banchina. C'era la piccola folla di curiosi e di passeggeri che attendevano la partenza del vapore di St. Oaks. Maggie, quando fu sbarcata e Steven la portava via rapidamente a suo braccio, ebbe la confusa sensazione di qualcuno che da quel gruppo venisse verso di lei come volesse parlarle, ma era condotta via in fretta e si sentiva indifferente a tutto, fuorché alla prova imminente. Un facchino li guidò al prossimo albergo, che era anche la posta dei cavalli, e Steven, mentre passavano per il cortile, prenotò la carrozza. Maggie non vi badò e disse soltanto: pregateli di condurci in una stanza dove possiamo sederci. Quando vi entrarono, Maggie non si sedette, e Steven, che portava in volto una disperata decisione, era sul punto di suonare il campanello, allorché ella disse con voce ferma: io non verrò. Dobbiamo separarci qui. Maggie, egli disse, volgendosi verso di lei e parlando col tono di un uomo che sente cominciare un processo di tortura, avete intenzioni di uccidermi? A che serve ormai? Tutto è compiuto. No, non compiuto, disse Maggie. Troppo è stato fatto, troppo perché possiamo mai riuscire a cancellarne la traccia. Ma io non andrò più in là. Non tentate di tornare a persuadermi. Ieri non avevo libertà di scelta. Ed egli che poteva fare? Non osò di avvicinarlesi. La collera di lei poteva prorompere e costituire una nuova barriera. Si mise a camminare avanti e indietro in una perplessità da impazzire. Maggie, le disse finalmente, fermandosi davanti a lei e parlando in un tono di implorante cordoglio, abbiate un po' di pietà, ascoltatemi. Oh, perdonatemi quel che ho fatto ieri, ora vi obbedirò, non farò nulla senza il vostro pieno consenso, ma non soffocate per sempre le nostre vite con una cattiva precipitazione che non può recar vantaggio a nessuno, che non può se non creare nuovi mali. Sedetevi, cara, aspettate, pensate a ciò che state per fare, non mi trattate come se non vi fidaste di me. Aveva scelto la preghiera più efficace. Ma la volontà di Maggie era fermamente deliberata all'imminente strazio, era deliberata a soffrire. Non dobbiamo aspettare, ella disse con voce bassa ma netta, dobbiamo separarci subito. Non possiamo separarci, Maggie, disse Steven più impetuosamente, non saprei sopportarlo. A che serve di infliggermi questa pena? Il fatto quale che sia, ormai è compiuto, può giovare a qualcuno che voi mi rendiate pazzo? Non voglio. Anche per voi, disse Maggie tremando, buttarmi ad un avvenire che accetti deliberatamente ciò che non sarebbe mai dovuto succedere. Quello che vi ho detto a Bassett lo sento anche ora. Avrei preferito morire che cadere in questa tentazione. Meglio sarebbe stato separarci allora, per sempre. Comunque dobbiamo lasciarci adesso. No, non ci lasceremo. Gridò Steven, mettendosi istintivamente con le spalle contro la porta, dimentico di tutto ciò che aveva detto pochi momenti prima. Non potrò sopportarlo. Voi mi metterete alla disperazione, non saprò più quel che farò. Maggie sentì tremando che la separazione non poteva aver luogo subito. Doveva tentare un più calmo appello a quanto c'era in Steven di migliore. Essere preparata a un più arduo cimento che quello di fuggire così al primo impulso. Si sedette, Steven fissandola con quello sguardo di disperazione che s'era acceso in lui come una tetra luce. Si staccò dalla porta, venne a sedersi accanto a lei e le afferrò la mano. Il cuore di Maggie batteva come quello di un passero atterrito, ma quella diretta resistenza la aiutava, sentì che la sua deliberazione si rinsaldava. Ricordatevi di ciò che pensavate alcune settimane or sono, cominciò con viva implorazione. Ricordatevi di quello che pensavamo tutti e due, che ci dovevamo ad altri, che ci toccava di vincere qualunque affetto potesse farci tradire questo debito. Non siamo bastati a tener fede ai nostri propositi, ma il torto rimane lo stesso. No, non rimane, no, disse Steven. Abbiamo dimostrato che era impossibile di tener fede ai nostri propositi. Abbiamo dimostrato che il sentimento che ci spinge l'uno verso l'altra è troppo forte per essere vinto, che la legge naturale supera ogni altra legge. Se spezza qualcosa, noi non possiamo farci nulla. Non è così, Steven. Sono sicura che è falso. Più volte mi sono sforzata di crederlo, ma mi accorgo che a questa stregua si troverebbe un pretesto per qualunque tradimento o crudeltà e arriveremo a giustificare l'infrazione dei più sacri vincoli che mai si siano formati sulla terra. Se il passato non riesce a legarci, in cosa consiste il dovere? Non avremo più altra legge che il capriccio del momento. Ma ci sono dei vincoli che non si mantengono solo per un partito preso. Disse Steven alzandosi e rimettendosi a passeggiare. Che cos'è una fedeltà di pura apparenza? Chi potrebbe esserci grato per qualcosa di così vuoto come la costanza senza amore? Maggie non rispose immediatamente. Soggiaceva ad un contrasto interno non meno che ad uno esterno e finalmente, con appassionata affermazione del proprio convincimento, tanto contro se stessa quanto contro di lui, disse. Può sembrare giusto a tutta prima, ma a guardarci meglio sono sicura che non lo è. Fedeltà e costanza significano qualche cosa di più che fare quanto ci riesce più facile e gradito. Significano rinunziare a tutto ciò che contrasti con la confidenza che altri ripone in noi, a tutto ciò che possa cagionar dolore a coloro che il corso delle nostre vite ha condotti a contare su di noi. Se io fossi stata migliore e più nobile, queste esigenze mi sarebbero state presenti con tanta forza. Le avrei sentite urgere così continuamente nel mio cuore, proprio come le sento adesso. nei momenti in cui la mia coscienza è desta, che i sentimenti contrari non sarebbero mai maturati in me come hanno fatto. Sarebbero stati soffocati, fin da subito. Avrei pregato aiuto con tanto fervore, sarei fuggita come si fugge da uno spaventoso pericolo. Scuse per me non ne trovo, nemmeno una. Mai sarei dovuta mancare a Lucy e a Philip come ho fatto, se non fossi stata debole, egoista e dura, capace di pensare al loro dolore senza un dolore mio, che avrebbe distrutto qualunque tentazione. Oh, quali saranno adesso i sentimenti di Lucy? Credeva in me, mi voleva bene, era così buona con me, pensate a lei. La voce di Maggie si faceva strozzata mentre proferiva queste ultime parole. Non posso pensare a lei, disse Steven, pestando i piedi come sotto l'assillo di una pena. Non posso pensare che a voi, Maggie. Voi chiedete a un uomo una cosa impossibile. Anch'io un tempo sentivo come voi, ma ora non mi riesce più. E che voi ci pensiate, a che serve se non a torturarmi? Salvarli da un dolore non vi è più concesso. Non potete che strapparvi da me, destituendo per me la vita di ogni valore. E se anche tornassimo indietro e mantenessimo i nostri impegni, se questo fosse ancora possibile, sarebbe spaventoso, orribile pensare che voi possiate essere la moglie di Philip, che voi possiate mai essere la moglie di un uomo che non amate. Siamo stati salvati tutti e due da un errore. Un profondo rossore si diffuse per il volto di Maggie ed ella non poté parlare. Steven lo vide, tornò a sedersi, prendendole le mani e guardandola con appassionata preghiera. Maggie, cara, se mi amate, siate mia. Chi può avere su di voi un diritto così grande come il mio? La mia vita è legata al vostro amore. Non c'è nulla nel passato che possa distruggere le nostre ragioni di appartenerci. È questa la prima volta che voi e io abbiamo amato con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Maggie rimase ancora per un po' di tempo in silenzio, con gli occhi bassi. Steven trepidava di nuova speranza, era sul punto di vincere, ma ella alzò gli occhi e incontrò i suoi con uno sguardo pieno di angoscia e di rimpianto, non già di assentimento. No, né con tutto il mio cuore né con tutta la mia anima, Steven, ella disse con timida decisione, non ho mai consentito con tutta me stessa. Ci sono ricordi e affetti e aspirazioni verso una perfetta bontà che hanno su di me un così profondo impero che non possono abbandonarmi a lungo. Mi tornerebbero a cuore e sarebbero sofferenza e rimorso. Non saprei vivere in pace mettendo l'ombra di un peccato volontario tra me stessa e la provvidenza. Cordoglio ne ho già cagionato, lo so, lo sento, ma non l'ho fatto mai di proposito, non mi sono mai detta soffrano gli altri purché io possa gioire. Quella di sposarvi non è stata mai la mia volontà. Se anche strappaste un consenso dal sopravvento momentaneo di ciò che io sento per voi, non avreste la mia anima intera. Potessi tornare indietro ai giorni prima di ieri, sceglierei di rimaner fedele ai miei più calmi affetti e di vivere senza la gioia di amare. Steven abbandonò la sua mano e, alzandosi con impazienza, si mise a passeggiare su e giù per la camera con rabbia soffocata. Buon Dio! Gridò alla fine. Che povera cosa l'amore di donna, appetto a quello di un uomo. Io commetterei dei delitti per voi, e voi ve ne state a pesare e a scegliere il pro e il contro. Ma già voi non mi amate. Se provaste per me la millesima parte del sentimento che io nutro per voi, non sapreste neppure per un momento pensare a sacrificarvi. Ma che importanza ha per voi di rubarmi tutta la felicità della mia vita? Maggie si strinse quasi convulsamente le dita che teneva intrecciate nel grembo. Un immenso terrore incombeva su di lei, come se la vedesse di quando in quando dei grandi lampi notturni rischiarare il luogo dove si trovava. Tornò pertanto a tendere le mani nel buio. No, io non vi sacrifico. Non potrei sacrificarvi, disse appena le fu possibile di tornare a parlare, ma non posso credere un bene per voi, quel che io sento. Quel che entrambi sentiamo essere un male per altri. A noi non è data la scelta né dalla nostra né dell'altrui felicità. Non possiamo dire dove si trovi questa felicità. Ci è dato soltanto di decidere se dobbiamo abbandonarci al momento presente o rinunziarvi per obbedire alla voce divina che risuona dentro di noi. per tenerci fedeli a tutti i motivi che santificano le nostre vite. So che questa fede è ardua e più volte mi ha abbandonata, ma ho sentito che se la lasciavo sfuggire per sempre non avrei più avuto lume attraverso le tenebre di questa vita. Oh, Maggie, disse Steven tornando a sedersi accanto a lei. Ma è possibile che non vediate che quanto è successo ieri ha completamente cambiata la situazione? Qual è la follia? Qual è l'ostinato pregiudizio che vi acceca così? È troppo tardi per dire quel che avremmo potuto o dovuto fare. Ammesso anche il punto di vista più sfavorevole su ciò che è stato commesso, sta di fatto che ormai dobbiamo andare avanti. La nostra situazione è mutata. La condotta da seguirsi non è più quella di prima. Dobbiamo accettare i nostri atti e da questi riprendere le mosse. Supponete che ieri ci fossimo sposati, è quasi la stessa cosa. Le conseguenze di fronte agli altri non sarebbero state diverse. Ci sarebbe stata solo tra di noi questa differenza, soggiunse amaramente Steven, che in tal caso voi avreste potuto riconoscere d'essere legata a me più fortemente che ad altri. Di nuovo un profondo rossore si diffuse sul volto di Maggie ed ella rimase in silenzio. Steven tornò a pensare che era sul punto di convincerla. Finora l'idea di non riuscirvi non gli era neppure passata per la mente. Ci sono delle possibilità da cui il nostro spirito rifugge troppo completamente perché si arrivi a temerle. Cara, le disse con la sua più profonda e tenera voce, chinandosi verso di lei e cingendola del braccio. Ora siete mia, tutti lo credono. Ogni dovere ormai nasce da qui. Tra poche ore sarete mia anche davanti alla legge e coloro che avevano dei diritti su di voi si rasseneranno. Vedranno che c'era una forza che smentiva le loro pretese. Gli occhi di Maggie si sbarrarono in uno sguardo spaventato verso quel viso che era accosto al suo ed ella si alzò nuovamente pallida. Oh, non posso, disse con voce quasi di agonia. Steven, non me lo chiedete, non insistete, non posso più discutere a lungo, non so quello che sia più saggio, ma il mio cuore non mi lascerà agire così. Io vedo, io sento adesso la pena loro come fosse impressa nel mio spirito. Io ho sofferto e non avevo nessuno che si impietosisse di me ed ecco che ho fatto soffrire altri. Quest'idea non mi abbandonerebbe mai, amareggerebbe l'amore che voi mi offrite. A Philip voglio bene. In un altro modo, so che egli pensava a me come alla sola promessa della sua vita. A me era dato di rendere meno dura la sua sorte e io l'ho tradito. E Lucy è stata ingannata, lei che si fidava di me più che di chiunque altro. Io non posso sposarvi, non posso prendere per me un bene spremuto dalla loro infelicità. La forza che ci spinge l'uno verso l'altra non è quella che deve guidarci. Mi strapperebbe da tutto ciò che la mia passata vita mi ha reso caro e sacro. Non posso incamminarmi per una vita nuova e scordarmi di quella. Ad essa devo tornare e attaccarmici, o altrimenti mi parrà di non avere più nulla di solido sotto i piedi. Buon Dio, Maggie. Buon Dio, disse Steven, alzandosi anche lui, afferrandola per le braccia. Voi delirate. Come potete tornare laggiù senza sposarmi? Non sapete quel che si direbbe, cara. Non vedete la vera realtà delle cose? Sì, che la vedo. Ma essi mi crederanno. Confesserò tutto. Lucy mi crederà, vi perdonerà e, oh, qualche bene verrà dall'aver seguito ciò che è giusto. Caro, caro Steven, lasciatemi andare, non mi travolgete a più profondi rimorsi. La mia anima non ha mai consentito tutta intera e neppure adesso consente. Steven le abbandonò il braccio e si rovesciò sulla propria seggiola, come impietrato da una disperata rabbia. Rimase in silenzio per alcuni momenti senza guardarla, mentre ella volgeva ansiosamente gli occhi verso di lui, atterrita da questo cambiamento subitaneo. Alla fine, e senza mai guardarla, egli le disse: Andate dunque, andate, lasciatemi, non mi torturate più, non reggo. Involontariamente ella si chinò verso di lui e tese la propria mano per toccare la sua, ma egli se ne ritrasse come da un ferro rovente e tornò a dire: Lasciatemi! Maggie non era consapevole di una decisione allorché si stornò da quel cupo viso che non la guardava e uscì dalla camera. Era come un'azione automatica che effettuasse con una intenzione dimenticata. Che avvenne poi? Una sensazione come di scale discese in sogno di scalini, di una carrozza coi suoi cavalli che l'aspettava, poi una strada e una svolta su un'altra strada dove una diligenza attendeva per caricare i passeggeri, e l'improvviso pensiero che quella diligenza l'avrebbe portata lontana, forse verso casa, ma in quel momento non si sentì di domandare informazioni, non poté che entrare nella diligenza. Casa sua, dove c'erano la mamma e il fratello Philip Lucy, il luogo precisamente dei suoi affanni e delle sue prove, era il rifugio verso cui il suo spirito tendeva, il santuario dove riposavano reliquie sacre, dove ella sarebbe stata in salvo da nuove cadute. Il pensiero di Steven era come una spaventosa, palpitante pena che, peraltro, come sogliono tali pene, pareva eccitare tutti gli altri pensieri. Ma tra questi pensieri, ciò che gli altri avrebbero potuto dire o pensare della sua condotta la toccava appena. Amore, profonda pietà e angoscia carica di rimorso non lasciavano luogo per questo. La diligenza la portava a York, molto lontano da casa, ma ella non lo seppe che quando fu deposta verso mezzanotte nella vecchia città. Non importava. Poteva dormire là e partire il giorno seguente per casa sua. Aveva in tasca la borsa con tutto il suo denaro, un biglietto di banca e una sovrana. L'aveva tenuta in tasca per dimenticanza, dopo di essere uscita per fare degli acquisti il giorno dell'antivigilia. Poté quella notte riposare nella lugubre camera del vecchio albergo, mentre la sua volontà si era già orientata senza ritorni sul sentiero del penitente sacrificio. Le grandi lotte della vita non sono così semplici. I grandi problemi della vita non sono così chiari. Nelle tenebre di quella notte le parve scorgere il viso di Steven rivolto verso di lei, con dolore appassionato e carico di rimproveri. Visse ancora tutte le tremanti delizie dell'averlo accanto, che facevano della vita un facile fluttuare entro una corrente di gioia, anziché una immobile, deliberata sofferenza e uno sforzo. L'amore a cui aveva rinunziato tornò su di lei con un incanto crudele. Ella si sentiva in atto di aprire le braccia per accoglierlo ancora una volta, e allora esso pareva fuggire via e dissolversi e svanire, lasciando solo il suono moribondo di una voce grave e commovente che diceva: andato, andato per sempre.